Viviamo, viviamo negli eti codici che la bellezza infiora e là fuggevo, fuggevo ora si deriva voluta Viviamo nei dolci freniti che sono usciti all'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente va Misterioso, misterioso. Oh. Thank you. fretta, agi per me lasciò novizie, amori e le pompose feste, ove agli omaggi avvezza vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me. Qui presso a lei io rinascere mi sento e dal soffio d'amor rigenerato scorrono le gaudi sue. Poi farina, ma sì, questo non si mio, rimorso in faria, io vissi tale errore. Ma tu, me sono a frangere il vermine. Per poco in seno a quetati, ho grido, grido dell'onore. Ma avrai sicuro di Thank you. Thank you. s'adempio a stringere mi qual figlia venga al seno o genero. Oh.

Thank you. 今天的歌舞剧场和你分享的是威尔第的歌剧《茶花女》以及亚当的芭蕾舞剧《四魔鬼》当中的精彩选曲。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，